Intanto buonasera a tutti. Io purtroppo non sono potuta venire l'anno scorso per motivi molto seri e me ne è dispiaciuto, e sono qui naturalmente per Anna. Ho letto attentamente il libro e io frequentavo la libreria Uscita come cliente dagli anni Ottanta, però ho sempre lavorato nel settore editoriale e quindi conoscevo Anna anche quando veniva nei nostri magazzini a rifornirsi di volumi per la libreria. Poi alla fine degli anni Ottanta, quando la situazione nella mia azienda era diventata non soddisfacente per me, perlomeno non dal mio punto di vista come commercializzazione, eccetera, eccetera, mi sono guardata intorno e combinazione ho incontrato Anna che mi parlava delle difficoltà della libreria, di come avrebbe potuto fare, chiedendomi dei consigli. Piano piano abbiamo cominciato a esplorare le possibilità, se ce n'erano. Cioè, io mi sono presa un po' di tempo per esaminare la situazione, che era veramente drammatica. Drammatica perché per un insieme di circostanze, sia per come era cambiato il mercato librario, e tu me ne puoi dare conferma, e sia perché purtroppo finito l'entusiasmo, l'adesione, l'interesse per le avanguardie politiche, sociali, artistiche, eccetera, pochi e affezionati compagni continuavano ad arrivare, però il passaggio praticamente via i banchi vecchi era nullo, e la libreria vive anche di questo. Allora abbiamo cominciato, siamo messi d'accordo, abbiamo creato una società. In questa società la maggioranza delle quote l'aveva Anna. Racconto tutto questo per spiegare poi anche quello che è successo dopo la morte di Anna, che secondo me è importante per mantenerne vivo il ricordo e l'immenso valore che il suo modo di agire secondo me ha. Mi dispiace che non ci sia né Luigi Garzone né Alberto Samonà, perché li volevo ringraziare, che sono stati dei collaboratori preziosi, sono rimasti in libreria mentre io e Anna andavamo in giro a esplorare tutte le possibilità che potevano far affluire danaro nelle casse, nella cassa. E per esempio abbiamo provato a fare le forniture a biblioteche, associazioni culturali, anche all'Ente Nazionale Biblioteche. Abbiamo cercato di trovare una strada che ci consentisse appunto di sollevarci un po' dal punto di vista economico. Però purtroppo queste cose si sono rivelate troppo esigue per poter garantirci una certa tranquillità. Dio mio, qualche contrasto tra me e Anna c'è stato, perché è chiaro che lei non poteva dimenticare i meccanismi che aveva seguito per tanti anni. Cioè, se io le dicevo: Anna, tu non puoi andare in fondo a Cinecittà a prendere un volume per un cliente che non si sa nemmeno se ripasserà, perché non c'ha senso, non è logico. Però lei non poteva, lei doveva assolutamente fare cose del genere, e questa sua ostinazione è quello che le attribuisce un grandissimo valore, che però metteva poi anche i bastoni tra le loro ruote, perché diceva: invece occuparti del clientino lì, cioè, facciamo quest'altra cosa. E allora abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che probabilmente era arrivato il momento di trasferire la libreria Uscita in un altro locale e in un'altra zona. Però il problema principale qual era? Quello economico, finanziario, perché nessuno di noi aveva possibilità di questo tipo, né aveva garanzie da dare a banche finanziarie, che allora non ce n'erano tante come oggi, per poter avere un prestito. E comunque abbiamo cominciato a girare, a guardare, ci siamo messi in contatto con altre librerie, abbiamo fatto tante riunioni anche da voi per cercare di organizzare una distribuzione comune che ci consentisse un po', diciamo, di affrancarci dalle consegne delle case editrici, dei distributori in particolare. E Samonà trovò il locale dove adesso c'è la libreria Bibli, e c'erano anche i colleghi della libreria Lungaretta, e poi c'era anche altra gente, molti dei quali non li ricordo nemmeno. Sembrava che la cosa dovesse quagliare, però dovevamo essere tanti per poter avere disponibilità di denaro per mettere in piedi questo locale, che allora sarebbe stato d'avanguardia, perché c'era lo spazio per mettere il piccolo ristorantino, la saletta per fare le proiezioni, insomma un po' avrebbe ricalcato, diciamo, quella che era stata l'uscita, sia pure con le situazioni cambiate, eccetera. Che cosa è successo? È successo che poi tutte queste persone avevano, non avevano fatto parte della libreria uscita, per cui non hanno neanche voluto che si ripetesse questo nome, cioè dice no, questa è tutta un'altra cosa. E allora qualcuno di noi si sono ritirati, e la libreria poi è stata aperta da altre persone, quelle che erano rimaste lì, cioè. Poi avevamo trovato un locale a Testaccio, proprio a Santa Maria Liberatrice, e secondo me era un localino carino, abbastanza grande, e in una zona che poteva anche, intanto librerie vicine non ce n'erano, non ce ne sono tuttora, ce n'è una piccolina proprio sulla piazza. E anche lì abbiamo fatto due conti e non ce l'abbiamo fatta. È assolutamente impossibile avere i soldi per affittarla e per poi allestirla, perché era un locale, c'era stato un abbigliamento, un negozio di abbigliamento. E allora siamo ritornati sui nostri passi, e per una serie di combinazioni io mi sono trovata a parlare con alcuni dirigenti del Manifesto, del giornale, e io gli ho buttato là questa idea, dicendo che forse avevamo qualcosa in comune da poter gestire e che quindi avremmo potuto lavorare insieme. E siamo andati avanti un annetto in questo modo, ad avere contatti di vario genere, con Valentino Parlato, con Roberto Tesi, e insomma si traccheggiava un po'. Io proponevo zone che secondo me erano di appartenenza, come posso dire, di appartenenza. Poi sotto l'ex sede, non la sede attuale, la sede di via Tomacelli del Manifesto, c'era la libreria Mondo Operaio. La libreria Mondo Operaio stava per chiudere, e ai compagni del Manifesto è sembrata la cosa ideale, perché così il giornale, i tre piani, che allora c'erano tre piani del giornale, sotto la libreria a immagine e a proiezione del giornale. E fino a qui è andato tutto bene, soltanto che poi a un certo punto ci siamo accorti che il progetto era una cosa mastodontica. Cioè io non riuscivo a capire da dove il Manifesto, che si sa è stato sempre anche lui non in buone acque, prendesse tutti questi soldi, questi locali che erano enormi, sono enormi, e di proprietà dell'INA, dell'Istituto Nazionale di Assicurazioni, e costava soltanto all'epoca 20 milioni di affitto al mese. E Allora io ho detto, ma ragazzi, cerchiamo di stare calmi, perché non è una cosa possibile, ma andiamocene in un posto dove, a parte il fatto che spendiamo meno anche se prendiamo un locale delle stesse dimensioni, dico, ma poi anche l'habitat è più adatto. Via Tomaselli è una strada, sì, di passaggio, cioè, però non è un punto di riferimento, eccetera. Sì, verranno quelli che comprano il giornale, i soci, eccetera. E però lì purtroppo non c'è stato niente da fare. E siccome, detta brutalmente, i soldi li mettevano loro, o perlomeno una grossa parte, perché poi anche noi abbiamo tirato fuori i soldi. Anche i clienti. Eh? Sì, come no, certo, hai perfettamente ragione, anche i clienti. Però come è stato, diciamo, demagogico, come posso dire, decidere di prendere questo locale, altrettanto lo è stato nell'attrezzarlo. Cioè noi avevamo di tutto, c'era la discesa al piano di sotto, dove erano state create 3 sale per le riunioni, da un'altra parte il corridoio dove stavano tutti gli economici, poi c'era lo strumento, quella specie di sedia automatica per far scendere le carrozzine dei disabili, poi c'era un settore, una saletta rotonda dove c'era tutte le pubblicazioni per i bambini, con al centro dei tavoli, con degli album che i ragazzini potevano giocare, stare insieme, eccetera. E dietro c'era tutto uno spazio che dava su Piazza Augusto Imperatore, enorme, non usato, ma che nell'intenzione doveva essere un ristorante. Io ho cercato di dir loro che una libreria per avviarsi anche in un posto come quello, minimo ci volevano 2 anni. Sì, mi dice, ma i libri in conto deposito? Sì, ma tu sai meglio di me che cos'è il conto deposito, vero? Non è che i conti arrivano. Ecco, dopo un certo numero di mesi i conti arrivano e tu poi devi essere pronto, devi fare le rese nel momento giusto, perché così però non ti riscalano mai subito, insomma tutta una procedura complicata. Insomma, la libreria sarebbe andata bene se fosse stata la metà di quello che era, sia come spesa sia come grandezza. Poi alcune diciamo dissapori ci sono stati, perché noi dell'uscita non siamo riusciti completamente a interagire con il personale che invece è venuto giù dal giornale. Poi c'erano quelli del giornale che, in quanto facente parte del manifesto, volevano comprare i libri col 30% di sconto. E allora lì noi alla uscita avevamo inventato quella storiella delle schedine, no? Perché allora che c'era mica il computer, eccetera, c'eravamo un bel contenitore con tante schedine, un cliente segnava il suo nome e si segnava sempre tutto quello che prendeva, raggiunto una certa cifra, si dava in libri una percentuale sulla cifra raggiunta, che mi sembra grosso modo come fanno oggi i Feltrinelli, che ti bucano la schedina più o meno, no? Sì, io non ci vado più perché mi mette in difficoltà entrare in una libreria come quella, come Mondadori, come tante, non mi ci trovo a mio agio, preferisco una piccola libreria del quartiere dove abito, che se non c'è i libri me li ordina, mica sto morendo. E quindi le cose sono cominciate ad andare poco bene, poi eravamo anche rimasti male perché la libreria si è chiamata Il Manifesto, per noi si doveva chiamare L'Uscita, e ci hanno dato il contentino facendo chiamare L'Uscita la società. E insomma, dopo un paio d'anni le cose non andavano assolutamente bene, perché i ricavi non servivano assolutamente, non erano sufficienti a coprire le spese. Per cui dopo un po' di tempo noi dell'uscita siamo stati accusati di non saper gestire il lavoro, mentre ci avevano mandato giù ad essere presidente della società un personaggio che diceva che gli si accapponavano i capelli quando era qualche cosa che non andava bene. No, adesso per, non faccio ovviamente nomi perché non serve, ma per dire il livello, insomma, anche nei confronti della lingua italiana non era proprio il massimo. Però sai, persone che pensano di saper tutto, di organizzare tutto, mi ricordo sempre la lite terrificante quando morì Mastroianni, che questo fece una pila, una specie di piramide del libro su Mastroianni. Io sono andata in libreria, sono arrivata in libreria, sono stata in banca, sono andata in libreria, ho buttata giù, e, insomma, è una cosa che non poteva andare. E quando è successo questa faccenda dell'essere accusati della cattiva gestione, non è stato più possibile continuare, quindi ci siamo dovuti ritirare, purtroppo ognuno è andato per la sua strada. Però questa che sembra una sconfitta, e lo è dal punto di vista concreto del lavoro, ha dimostrato una cosa, che Anna non ha chiuso con la sua morte le sue idee, il suo modo di concepire. Avete sentito questa intervista? Ma quando lo trovate oggi un libraio che parla così? Ma quando lo trovate? Ma non esiste. Tu vai dalla libreria come Feltrinelli, dici scusi io vorrei... ti guardano, a parte che sono pure maleducati, ti guardano, poi si mettono lì, sì, lo scaffale, se no non sanno manco dove sta la Bibbia, faccio per dire, non lo sanno, vanno... Non esiste. Il fatto di essere riuscita a comunicare comunque a me e a tutti quelli che hanno collaborato con lei finché è stata viva, tutto il suo entusiasmo, tutto il suo modo di tenere in mano un libro, la speranza di poter ricostruire sia pure in tempi diversi e con atteggiamenti diversi, forse con proposte diverse, ma comunque sempre intendendo il lavoro del libraio e la libreria come la sede del sapere, della conoscenza, della maturazione di un individuo, questo ce l'ha trasmesso tanto a noi che eravamo i suoi soci quando è stata creata la società, che abbiamo continuato finché è stato possibile a comportarci nello stesso modo, cercando certo di essere forse più realisti, di cercare di capire che esistono delle esigenze purtroppo che non si possono ignorare, però il nostro atteggiamento è stato lo stesso. E questo è quanto Anna ci ha trasmesso e che io personalmente non dimenticherò mai, e che penso che non andrà perduto anche dopo che noi non ci saremo più, perché sicuramente saremo in grado di trasmetterlo a qualcun altro. Grazie. Prima di dare la parola magari a Katia, volevo dire proprio due cose molto, molto, molto, come dire, semplici e dirette sul significato, prima che ha questo ricordo di Anna in questa sede. Questa è, come sapete, una sede eretica e accogliente della sinistra italiana. E io ho l'onore di dirigerla da 20 anni, ed è la casa che accoglie le eresie creative della sinistra, quindi per me questa è la sede adatta per ricordare Anna e per ricordare anche suo nipote, che per noi è come fosse nostro figlio Carlo, quindi è proprio assolutamente, è come fosse parte di noi, quindi questo è il primo significato che ha questa rievocazione. Poi altra cosa, io sono arrivato a Roma subito dopo le elezioni del 1976, sono state in parte una delusione dopo il 75, no? venivo da Firenze, che è la città non mia, io sono meridionale, ma sono arrivato a Firenze, poi sono stato a Germania, città di mia moglie. Siamo tornati, siamo arrivati e gli amici, i compagni mi dicevano che la libreria da frequentare è la libreria uscita, via dei Banchi Vecchi. E allora andavo a via dei Banchi Vecchi e io poi sono una persona che quando ingrana è comunicativo, ma all'inizio entravo in libreria, guardavo tutto questa libreria e c'era questa giovane signora che stava lì alla cassa e che ogni tanto ordinava schede. E ero rimasto ammirato sia dal modo in cui la libreria era stata organizzata, con criteri straordinari, e mi ricordava molto, io avevo prima del ripassaggio a Firenze, ero stato 5 anni in Germania, mi ricordava le librerie gestite dai compagni e dalle compagne in Germania, con passione e con rigore, passione e con rigore. Cioè, io ci ho messo 3 mesi o 4 mesi prima di presentarmi ad Anna, al 12° libro che compravo, io ho detto, senti, ma quel libro lì ce l'avete, quel libro ce l'avete, dico, ma com'è che lei si interessa a questo libro? Ma dico, insomma, approfitto per presentarmi, e lei mi fa, so già chi sei. Dice, so già chi sei, dice, è mesi che circoli qui, so benissimo chi sei. Abbiamo cominciato a parlare e effettivamente era l'Anna che parlava esattamente, una cosa straordinaria, lei davanti alla telecamera parlava esattamente la stessa maniera con cui parlava, appunto, normalmente con le persone a 4 occhi, sempre con quel suo garbo e poi anche quella sua rigorosa fermezza che aveva, no? Era dolce e molto rigorosa, e ho riconosciuto anche queste cose. Cioè, il libro per lei era una, come sempre è stato il mestiere dei grandi librai, da quando c'è il libro a stampa in poi, dal 500 in poi, il libro è una missione. È anche un mestiere, ma un mestiere è una vocazione, il libro. Ci vuole una passione, un sacrificio per fare il libraio. Perché il libro significa dare agli altri gli strumenti per comprendere la realtà e naturalmente dare agli altri uno strumento di comprensione che sono strumenti anche di critica dell'esistente. Cioè, il libro in qualche modo è già qualcosa che sfugge al potere, cioè, ma non soltanto il libro, certo, io mi sono commosso a rivedere il ritratto di Marx, no? Però lei non ha mai citato Marx, non ha bisogno di citare Marx, perché lei l'aveva assimilato nel suo modo di essere, nel suo modo di parlare, Marx. Lei poteva consigliare Pessoa, infischiandosene del fatto magari che Pessoa era un personaggio decadente, un personaggio strano, anarchico, con degli aspetti anche a volte un po' conservatori, un po' reazionari, però grandissimo poeta, grandissimo scrittore, tutto ciò che apre la mente, apre alla critica dell'esistente, questo Anna lo sapeva benissimo. Il potere ha bisogno che le menti siano chiuse, quando la mente si apre, no? E allora è chiaro che entriamo in un altro ordine di idee. Il libro l'ha detto, ma lo ripeteva ai clienti, a quelli che erano diventati clienti in qualche modo abituali come me. Lì ho comprato Balzac, i giornalisti, e lì ho comprato il libro, i giornalisti di Balzac parlava. E insomma, il libro non coincide con l'attualità. Cioè, non è il libro di successo. Se noi andiamo a vedere il rapporto tra libri di successo e valore del libro, a volte quasi inversamente proporzionale, a volte capita, è un miracolo che un grande libro può essere anche un libro che vende, ci sono rari casi, ma a volte, proprio più delle volte, è inversamente proporzionale. Lei sapeva benissimo che il vero libro è quello che dura, è quello che il cliente è già orientato, va a chiedere e lei va allo scaffale a prenderlo. La capacità di una libreria di fare scaffale, questo è fondamentale. E d'altra parte, ecco, io trovo che appunto il commento che mi veniva, il commento che faceva Mirella prima, cioè librai in questo modo non se ne trovano più, a parte Katia che adesso sta prendendo, ma tu hai ripreso anche perché Anna era, come tutte le persone grandi, una persona umile, quindi non aveva, come dire, la sfrontatezza, aveva un modo umile di rapportarsi. E un po' era questo che volevo dire, questo che avrei in qualche modo scritto. Ecco, aggiungo una cosa più storica, più di ordine storico, per la storia della sinistra. Nella libreria uscita io ho trovato una serie di copie di riviste importanti per ricostruire la memoria della sinistra, copie di numeri che mi mancavano della collezione, non so, di, fai conto, Classe Operaia, o la quaderno di Quaderni Rossi che mi mancava, o il fascicolo di Quaderni Piacentini che mi mancava, anche cioè questa capacità che aveva la libreria, che aveva Anna, di tenere in sé insieme le tracce della memoria della sinistra. Io penso che stia rinascendo questo. Ecco, io vedo questo, vedo che c'è. Nei giovani oggi c'è esattamente la riscoperta di queste cose, mentre libri che fanno sparate di successo enormi, dopo 3-4 mesi nessuno più li chiede. E io credo che alla lunga Anna abbia ragione, avrà ragione e resterà. Il suo lavoro resterà molto più del lavoro di queste librerie prive di anima, che sono le librerie, i megastore librai che noi abbiamo. Ecco questo. Io penso che, insomma, una che consiglia Bataille e poi che Mirella che consiglia Balzac, lei che parla di Caffè, che era economista anche come un filosofo, perché effettivamente era anche non era soltanto un economista, era un pensatore, era un testimone del nostro tempo, un grande accademico che però ha gettato la prospettiva al di là dei limiti dell'attualità. In questo modo ricordo Anna, mi sembrava un pezzo di una grande libreria mitteleuropea nel cuore di una Roma che in quegli anni era una Roma attraversata da movimenti di protesta anche molto duri, 76, 77, 78, 79, via dicendo, quindi in qualche modo era il luogo in cui mi recavo appena uscito da casa. Allora abitavo in via del Pellegrino, ora abito alla parallela via dei Cappellari. Era un modo di fare, appunto, sempre lì, andavo da lei e per me lei era la persona senza la quale non sarei mai riuscito a portare avanti una serie di miei lavori, perché molti materiali di lavoro li ho reperiti appunto proprio grazie ad Anna, e grazie ad Anna io sono cresciuto in qualche modo anche intellettualmente. Tutto questo. Tocca a me, tocca a te. Che posso dire? Io già da giugno noi avevamo organizzato un incontro da me a Libreria Fahrenheit, proprio perché io ci tenevo parecchio a ricordare il lavoro di Anna, anche perché mi sento in qualche modo erede del suo lavoro. Noi ci siamo conosciute, anzi io ricordo molto affettuoso di essere uno dei primi ricordi che ho di Anna, che era andata in libreria e era una donna sia austera ma anche molto dolce e generosa. Sì. Io mi ero presentata e dicevo: sì, ho intenzione di aprire una libreria, non so ancora dove. E poi mi aveva visto che ero abbastanza giovane, insomma, quindi pochi soldi. Mi ha visto che stavo guardando avidamente un libro di fotografie e lei me l'ha regalato. Io ancora ce l'ho con il cuore negli occhi, visto che era una fotografia. E poi negli anni, insomma, ecco, ci incontravamo sempre in distributori, insomma, era un rapporto di lavoro, però ognuno aveva la sua libreria, ognuno aveva la sua impostazione, e per noi era un periodo di crescita, era una libreria appunto come siamo sempre in arrivo la notte, insomma, quindi rappresentavamo una sorta di variazione, però appunto legata alla stessa idea di concezione di libreria, che credo che sia abbastanza possibile anche oggi, nonostante il fatto che Anna ha avuto sicuramente la fortuna di vivere dei momenti molto brillanti, di quelli che ho vissuto io da quando ho aperto, cioè dall'89, quindi dagli anni del riflusso fino a oggi, che sono tre i più drammatici. Il filmato mi ha commosso parecchio, solo per vedere Anna, poi Anna ha questo volto così simile a Heidi, quindi vero, sì. un forte impatto nazionale. Ma proprio in cui mentre guardavo con curiosità come era disposta la libreria, come era ordinata e quanto è disordinata la mia, per esempio. E poi i libri che consigliava, e condivido pienamente, anche io ho questa impostazione, cioè non mi piace molto l'idea di concepire la libreria legata alle novità, che è poi il principio delle librerie oggi. Ecco, forse è un modo per ricordare Anna, secondo me, anche parlare di tutte le trasformazioni che ci sono e della situazione che vivono i librai oggi. E pensavo, mamma mia, ma se Anna per qualche motivo fantascientifico si ritrovasse adesso, oggi, a alzare la serranda della sua libreria e a trovarsi com'è il mercato editoriale, il libraio, io non so se lei leggerebbe, se tollererebbe quello che siamo, qui ci scontriamo ogni giorno, insomma, è un mondo completamente diverso. Lei già pagava negli ultimi anni, quelli che tu parli, che tu hai parlato soprattutto della libreria, non dell'uscita, quando aveva una sua identità storico-politica, certo, fortissima, certo, era certo. Punto di riferimento, ma degli anni dei riflussi, insomma, certo. Quelli che già, io esistevo già come libreria, mentre lei parlava, certo, in questa intervista. Certo. Però proprio ecco, la concezione della libreria di catalogo oggi è impossibile, anche perché il mercato editoriale libraio è fondato sul profitto, sulle uscite, neanche sulle vendite, ed è qualcosa di spaventoso. Cioè gli editori pubblicano sapendo che non venderanno quei libri, ma già fanno profitto. Non parlo proprio degli editori, ma della grande distribuzione, che è quella che è in mano tutto, e il disegno è chiaro, insomma, questi vogliono fagocitare completamente un mercato, produrli, distribuirli e venderseli, fai tutto da sé. In questo contesto drammatico, noi, molte librerie come Anna, come io nel mio piccolo, che, insomma, raccolgo l'eredità della lezione di una libreria come quella di Anna, in cui il giornalista si ostinava e non capiva, e lei diceva, come ho già detto, cioè, non mi interessa parlare delle novità e di fare la pubblicità dei libri, ma pensa al libro, alla sua identità, quindi vorrei consigliare le cose che sono magari gli eterni, non le novità, insomma. E in questa eredità ovviamente d'accordo, insomma. Però ecco, oggi troverebbe una grande difficoltà a mantenere una libreria di catalogo, perché è impossibile, fondandosi il mercato sulle uscite delle novità, e basta, perché fanno profitto su quelle uscite, lei avrebbe difficoltà a fare rifornimento del catalogo, perché i distributori non vengono i cataloghi. Quindi questo è un problema che un editore forse si rende ben conto, insomma, è un problema grosso, insomma, perché è la morte della coscienza. Ma sono loro i padroni, sapere, del mercato librario, non c'è più un rapporto. Noi abbiamo veramente difficoltà, perché sono tignosa, non te la voglio dare vinta, non è possibile che possa esistere solamente un tipo di mercato. Cioè bisogna rendersi conto che questi guadagnano anche se non vendono. Assolutamente, capisci? Perché loro fanno, noi non è che ce li danno il deposito, qualcosa che a me viene da sorridere, il deposito non esiste più, questi vogliono soldi subito, da 60 giorni noi paghiamo, e pubblica una quantità di cose che Anna neanche immaginerebbe, questa quantità, oggi un libraio come Anna, fare ricerche eccetera, o come io tento di fare disperatamente, ma malamente, è impossibile, non possiamo stare dietro a tutte le novità, sono troppe. Per cui i libri arrivano e scompaiono, e uno neanche ricorda più i titoli. problema è appunto il meccanismo fatto su questa rotazione della novità che tornerà indietro, perché noi abbiamo la possibilità della resa, che c'è ancora, ma nel momento in cui rientra, noi dovremmo avere delle note di credito, non si ci danno soldi, ma un credito sui pagamenti successivi. Appunto, successivi. Loro avrebbero il problema del fatto che gli arrivano montagne di rese, quindi andrebbero sotto, e devono pubblicare sempre di più, perché così sono in credito. Esattamente questo. Ma se i titoli a un certo punto, ma il distributore, la grande distribuzione non rischia niente. La grande distribuzione non rischia niente, perché loro comunque a 60 giorni hanno il nostro sangue, cioè il denaro liquido, e a loro gli riscaricheranno le montagne di cose invenute. Per cui gli editori si devono soffocare, che non potranno mai avere un magazzino pienissimo di rese invendute di un tipo, di 1000 copie ne venderanno 100, 50, 200 se gli va bene in tutta Italia, gli altri 800 gli ritornano indietro. E che cosa fanno? Adesso si sono presi anche il mercato dei Remenders, ecco. Se voi vedete Mailbook, che è una libreria che è proprietà di Messaggeria e Libri, Messaggeria e anche IBS Online fa anche Remenders, per cui agli editori gli dico, vabbè, ma non li compriamo a prezzo di macero? Loro si ringlobano queste cose e se le rivendono a Remenders, fanno profitto pure su quello. Questa è la situazione purtroppo drammatica con cui noi facciamo i conti. Noi siamo delle storie che non dobbiamo esistere più. Fa un po' fastidio che altro, perché siamo quelli che telefoniamo, ma ce l'avete quel libro uscito del 2004? Dice no, è esaurito. Allora io non mi fido, chiamo l'editore, mi dicono che è esaurito, ma ce l'hai o non ce l'hai? Ma come, c'è magazzini pieni? Ma il tuo distributore che si vende il 60-70% di sconto, lui invece dice che è esaurito. Quindi c'è tutto un meccanismo. Noi siamo fastidiosi, non serviamo. Esattamente come la piccola editoria viene inglobata a questa cosa loro, che si prendono i titoli buoni e se li ristampa. Ecco, questa è la situazione che Anna, credo che Anna ha sentito, ha percepito e ha vissuto l'inizio di questo dramma, perché è un grande dramma. Ecco, sì, tra l'altro noi abbiamo anche un mercato libero spaventoso. In questo paese non accetteranno mai una legge larga come i francesi, dove è l'unico paese in Europa che non ha problemi meno editoriali, insomma. Il fatto che si comprano dei libri con il 5% massimo di sconto non ha portato a una perdita di lettori. È uno dei paesi che penso che leggano di più, Germania e Francia. Francia e Germania. Francia. Anche in Germania zero sconto. Francia 5%, in Germania non ci sono sconti. Inghilterra mercato libero, chiudono tutte le librerie. America mercato libero, tutte le librerie indipendenti chiudono. Se tentano di riconvertirsi un po' di... Quindi... Questo è un mercato fondato sulla truffa continua. In America c'è Amazon, che larga parte dei libri. Che vendono con lo sconto con cui compriamo noi i libri. I libri tradotti in inglese sono comprati più su Amazon che nelle librerie. Sì, ma tanto vendono con lo sconto con cui compriamo noi i librari. Con sconti. E per quale motivo questi allora vendono? Questo è vero. Comunque abbiamo calcolato il fatto che l'Italia, italiano diciamo noi, non è che tutto il mondo lo vuole scartare. Sì, ho capito, però uno che stampa il in libro inglese lo esporta in paesi in Asia, in Africa, dovunque, certo. Ma in Italia chi lo legge in italiano? Certo. È pochissima, la piccolissima elite del mondo, insomma, che si... cioè è diverso chiaramente stampare una quantità di copie in inglese. Il problema è che tu non puoi stampare un libro a 20 euro e poi venderlo dopo due mesi con una campagna di 20% di sconto. Allora perché mi stai truffando? Quel libro non ti è costato 20 euro. Cioè il lettore deve sapere che se c'è un prezzo è perché ci sta un grafico, c'è un traduttore, c'è un redattore, c'è una casa editrice, c'è una distribuzione, una libreria. Cioè un libro ha un suo costo. Va rispettato, non è un prodotto come una pera, una mela o che posso dire un bicchiere, una bottiglia di birra, è un'altra cosa. Così io credo, anche tutte queste campagne, bisogna che anche il lettore cominci a pensare che nel momento che questi fanno il 25%, a noi ci arrivano poco prima dei prezzari che ci cambiano. E quindi pensate di comprare con uno sconto, ma in realtà non è uno sconto, perché questi hanno aumentato prima, anche di 3-5 euro. Però chiaramente questo che fa? dirige tutto un gregge, purtroppo parliamo in questi termini, siamo dei buoi acritici, e andiamo tutti quanti dove pensiamo di avere il nostro guadagno personale, ma in realtà invece il nostro guadagno si trasforma in una perdita totale, perché fra un po' voi leggerete Moccia, leggerete, che ci avete da leggere? Non lo so. La Mazzantini. Se io non voglio fare, non mi dire nessuno, vabbè, rimaniamo a Moccia. E conseguenti. E conseguenti. Però, appunto, libri Balzac, come Dear Man, non esiste. Non esageriamo. Ti assicuro che hai un Oscar Mondadori, se non te lo leggi, non esiste più. Se vuoi c'hai i Meridiani, ecco, insomma. Sì, con tutta la roba. Chi è che si compra 3 volumi a 60 euro? No. Balzac vale, eh? Sì, però. Perché nessuno ha fatto un'analisi della società, sarà stato conservatore, ma l'analisi non solo dei giornalisti, ma io sto pensando a Illusioni perdute che ho riletto ultimamente, sono affascinata, cioè il mondo editoriale racconta da Balzac, nessuno ha una visione critica come infatti era un punto di riferimento per tutta l'opposizione repubblicana, per tutti insomma, ecco, Balzac non lo chiedono più perché non lo trovano. È una situazione drammatica, insomma, forse anche un modo per ricordare Anna, un po' diverso rispetto a giugno dello scorso anno, che avevamo ricordato soprattutto sui momenti di forza, no? Gli anni 60, la forza propulsiva culturale di questa libreria. Io neanche sapevo che aveva fatto tutte le iniziative che sono riportate e ricordate in questo piccolo libretto preziosissimo, secondo me. Sì, perché non la dà vinta a chi sostiene che quegli anni erano anni negativi, perché oggi non sarebbero in grado di fare grafiche così, di fare manifesti come quelli, che avevano anche nelle linee insomma una forza di pensiero che oggi mi dispiace purtroppo, sono ben lontani. Basta vedere la grafica dei libri, io li raccolgo dove li trovo, perché Anna diceva io non mi occupo d'antiquariato. Oggi secondo me lei si occuperebbe, come sto facendo io, dei libri esauriti, rari, proprio perché è una anti Feltrinelli, Mondadori, eccetera. Loro non potranno arrivare a questo. Loro potranno vendere solamente queste montagne di caterve di novità. Ma se di 20 anni prima, io ho trovato i libri dei primi anni 60. Ma certo, anche io. Eravamo più o meno alla fine degli anni 60. Guarda, gli ultimi anni di Anna, e quando facciamo le riunioni noi appunto un po' ci ridevamo su queste cose, c'era l'indice di rotazione, cioè un libro veniva tenuto in libreria a seconda di quantità tu vendevi in un determinato periodo, per cui se Balzac lo vendevi una volta, una copia ogni 2 anni, quel libro non valeva la pena di tenerlo sullo scaffale, dovevi togliere e mettere qualcosa di vendibile, cosa che è assurda. Assurda, perché è chiaro che un libraio sa che per narrativa ci sono dei classici su cui non puoi, e vedrai uno in 5 anni, ma quello ce lo devi avere. Però io ho notato ma nessuno delle frequenze, perché il fatto è molto italiano, è generale, è globale, questa cosa di teoria, ma anche molto italiano. Io ricordo gli anni 70 fino al 1984-85, la libreria uscita anche vecchi era molto frequentata, poi piano piano la frequenza comincia a diminuire, e ricordo anche che appunto nel mentre che si piazzavano le librerie nuove, cioè l'arrivo della Feltrinelli all'Argentina ha determinato anche un cambio, intanto ha determinato, non dimentichiamolo, il fallimento della libreria Rinascita. Non dimentichiamo questo, no, quello è che secondo me era più legato a lo stesso, c'era. La libreria Croce era lo scolastico, c'aveva il banco, andavano lì, ma la Feltrinelli di largo argentino, ma io non so se è proprio la Feltrinelli, posso dire, secondo io non la vedo così, io vedo che la libreria Rinascita secondo me rispecchia quello che è, il problema è proprio la perdita di coscienza, perché mentre negli anni 60-70 i compagni sapevano che la libreria uscita era il posto dove loro trovavano le loro fanzine, le loro riviste, il loro punto di riferimento, e se si doveva fare qualcosa o comprare qualcosa si andava da quelli che erano i nostri simili. Sì, esattamente. Rinascita rappresenta, e lo stesso poi anche la perdita, secondo me, di una certa clientela che magari prima era fedele, purtroppo è il prodotto di un certo riflusso di gente che ha voluto ripulirsi, e si è ripulito anche le biblioteche. Da oggi è molto facile trovare nei mercati dei libri importantissimi, però che facciamo parte di una certa ideologia, proprio in questa ideologia della non ideologia, che è proprio una delle più deleterie, secondo me, ideologie che si possano concepire, si è fatta tabula rasa di tutto, e quindi tutto quello che rappresentava quel mondo di cui bisognava ripulirsi era meglio non frequentare, no? Quindi gli specchietti per le allodole di queste grandi strutture forse rappresentavano un'attrazione diversa. E Anna si è trovata probabilmente, come in qualche modo mi trovo anche io oggi, io lo so, io ho una perdita di clientela del passato, ma che è legata al fatto che... E oggi guarda che c'è una tendenza... Io me lo auguro, faccio resistenza, però cioè, so che sono sola contro... ...contro di scoprire una serie di cose. Io penso che Rinascita abbia pagato la fine del PC e il riflusso e tutto quanto. Però che ti ritrovi, no? Sì. Carissimo prezzo da collezionismo, carissimo prezzo da collezionismo. Poi anche già, stai, no. Basta, il mio piccolo contributo l'ho dato. Hai fatto bene, perché è legata veramente alla situazione di oggi. Grazie. Tante volte penso. Ciao, che io ho avuto una grande fortuna, ho potuto lavorare alla libreria Uscita nei primi anni 70, quando era appena nata, e io ero un giovane studente che girava allora per conoscere, per studiare, per capire il mondo in fermento di quegli anni post 68, e l'Uscita era l'unica libreria all'epoca dove si poteva trovare qualcosa di veramente alternativo, libri introvabili altrove, autori semi sconosciuti, un mondo meraviglioso che permetteva scoperte incredibili. Quindi non era una libreria normale, diciamo così, era una libreria militante, una libreria d'avanguardia, una libreria che creava conoscenza. Anna ha dato un termine qui nel filmato importante, una libreria raffinata. Dove le troviamo oggi in effetti librerie raffinate? Ne esistono pochissime. Io che giro ancora, per fortuna, librerie, una di queste è quella di Katia, la Fahrenheit 451, ma ne esistono pochissime altre a Roma e pochissime in tutta Italia. Con Katia abbiamo pensato di creare questo nostro libro, La cultura brucia, in memoria di Anna. L'idea è stata di Katia. No, e io... insieme, sì, insieme. Vabbè, diciamo che comunque la spinta è venuta parlando di Anna e tu hai dato l'input. E ci siamo subito ritrovati nel desiderio di perpetuare una memoria, qualcosa che rischiava di scomparire, qualcosa che dovevamo fissare. L'Uscita, secondo me, ha rappresentato per Roma, per l'Italia, per il mondo in quegli anni un esempio importantissimo, perché passavano da lì personaggi che poi hanno fatto la storia, sono diventati ambasciatori, scrittori, giornalisti, professionisti, gente che si informava, gente che viveva nella storia, in quel momento, perché in quel momento lì bisognava stare, e questa è stata appunto la mia fortuna. Essere cresciuto in un ambiente come quello dell'Uscita che permetteva a tutti noi di creare la storia. Io ero studente, ripeto, però ero un grande appassionato di libri, portavo le riviste, riuscivo a crearmi un mondo mio. Anna, vedendomi così attivo e vedendomi soprattutto che sistemavo i libri senza che me lo chiedesse, era il settore anarchico, pensate un po', mi piaceva metterlo in ordine, dice, ma perché non vieni a lavorare alla libreria? Allora io contentissimo, studente universitario, per guadagnare qualche soldo, figuriamoci, non vedevo l'ora. E così i pomeriggi per qualche ora, e anche la notte, perché non dimentichiamo che l'uscita, una cosa importantissima, aveva un'attività notturna, serale e notturna, intensa, con dibattiti, presentazioni, e Gianni ce lo potrà dire, con filmati, insomma tutto un mondo incredibile che per anni ha coinvolto una popolazione veramente attiva di Roma. E io diciamo che devo essere tanto grato ad Anna per l'esempio che mi ha dato, l'esempio di serietà, esempio di coerenza, esempio soprattutto di conoscenza del libro. Io ho imparato il mestiere del libro lì, sul posto, sul campo, in trincea, nella libreria uscita. Sono poi diventato bibliotecario, poi editore, diciamo che ho attraversato un po' tutti i mestieri, ma la base l'ho avuta lì all'uscita. La bibliosofica, che è la casa editrice da me fondata, vuole appunto dire biblio, mondo del libro, sofica, conoscenza, sofia, filosofia. È l'unione tra la bibliologia e la filosofia in pratica. E i miei libri, in fondo, sono sì un piccolo editore, non vendo cose strabilianti, però i distributori mi apprezzano, anche gli studiosi, cioè non sono libri da grande pubblico, ma sono libri di catalogo. Il distributore dice sì, fai bene, fai questi libri, magari vendono in 10 anni, non tanto, però vendono, poco poco, ma vendono. Altri libri, l'abbiamo detto prima, invece dopo 2-3 mesi scompaiono. Ora, dove troviamo più librerie come l'uscita? La memoria di Anna Gaggio, secondo me, va perpetuata, va lasciata una traccia. Dobbiamo cercare di fare in modo che persone come Anna siano ricordate. Noi non abbiamo in Italia ricordi, che ne so, per esempio targhe stradali. Avete mai visto targhe stradali, strade intitolate a librai, a bibliotecari, a editori? Forse Mondadori, a Segrate c'ha la sua strada, ma altri non ce ne sono. Perché? Perché il mondo del libro è emarginato, è nascosto, è messo da parte. È come se effettivamente noi, librai, editori, bibliotecari, ci mettiamo tutti insieme, fossimo una fetta, e in effetti lo siamo, minimale del mondo della cultura. Quindi abbiamo questa forza che ci porta comunque avanti, la passione che ci fa andare verso, speriamo, il mondo migliore, perpetuiamo il desiderio della, come dire, di diffondere la conoscenza, e Anna in fondo è stata una di queste. Io ringrazio Anna, ringrazio l'uscita per tutto quello che mi ha dato, e in questo libro noi la ricordiamo attraverso testimonianze, attraverso foto, attraverso manifesti, e dobbiamo dire grazie a Gianni Pegg, che è il marito di Anna, è stato il marito di Anna, che ci ha concesso la sua, il suo ricordo in questo libro che vi invitiamo a leggere. Grazie. Chi è l'autore di tutte queste meravigliose affiche? E riprendere un po' da dove ha cominciato Giovanni, parlando dell'occasione in base alla quale è nato il libro, come è stata felice questa idea loro di provare a ripercorrere la storia dell'uscita, così ha reso felice me, perché, e mi ha preso di sorpresa, io avevo mantenuto, non so perché, attraverso 1000 traslochi, non so perché, lo so perché ci tenevo moltissimo, attraverso tanti traslochi da città a città, eccetera, tutti gli originali e i documenti e i calendari delle attività della libreria, no? E non sapevo, pensando che un giorno bisognava parlarne qualcuno, e non avevo la più pallida idea di che sbocco dare a tutto questo materiale. Pensavo, un giorno farò una mostra dei manifesti e quindi si potrà riparlare di come sono nati e perché, ma l'occasione di un libro in cui poter recuperare il più puntigliosamente possibile, come ho fatto, cioè proprio quasi giorno per giorno, tutto quello che era recuperabile, che è stato recuperabile dell'attività svolta in quegli anni straordinari della libreria, in quei primi anni, è stata una sorpresa incredibile avere questa occasione. Cioè, per me è stata una grande gioia e sono contento. Quello che mi fa veramente piacere, che il luogo in cui questi documenti sono stati recuperati e ritrovano la luce sia un libro. Mentre io pensavo a un'iniziativa, un evento, no? Invece il luogo del recupero dei documenti della libreria uscita è un libro, per fortuna, no? E di questo devo ringraziare tanto sia Katia che Giovanni, perché a me non sarebbe mai venuto in mente, anche se mi fosse venuto in mente non avrei avuto l'opportunità. Quindi ci voleva veramente un'iniziativa editoriale per far tornare alla luce tutto questo. È inutile che adesso io vi stia a ripercorrere queste cose che sono scritte nel libro. La cosa che vorrei dire è che la libreria intanto è nata dall'idea del gruppo 63 di Nanni Balestrini, Valerio Riva e compagni, come libreria di movimento, ma all'inizio, siccome c'era anche nel gruppo Gianfranco Barucchello amico, che, personaggio incredibile, ecco, allora lui pensava più a una libreria d'avanguardia, sì, no? E così è nata come libreria d'avanguardia e di documenti dell'avanguardia letteraria degli anni 60-68, perché io nel 68 sono arrivato a Roma, la libreria è nata alla fine del 69, e allora erano i libri sonori, i libri visivi e tutta una serie di libri oggetto che rappresentavano la sperimentazione letteraria dell'epoca. Inoltre, accanto a questi, i documenti del gruppo 63, e cominciava a essere presente anche la pila dei giornali di Compagni Virgola, che di lì a poco è uscito dal gruppo 63 come giornale di movimento. Sull'onda di questo sono arrivati molti studenti, più sull'onda di questo, di questi primi documenti di movimento che per la presenza di una letteratura d'avanguardia. E gli studenti hanno portato un vento che veniva da molto lontano, e per me, io l'ho sentito arrivare da Cuba in particolare, attraverso un fascio di manifesti cubani che mi hanno sbalordito per la novità grafica, per la straordinaria bellezza grafica, lo straordinario coraggio grafico, c'erano delle audacie grafiche pazzesche, bellissime, che era difficile trovare anche nella migliore grafica svizzero-giapponese dell'epoca. Allora erano gli svizzeri e i giapponesi che facevano la grafica più avanzata. Beh, la grafica cubana batteva tutti in quel momento, e ho detto, ma è da qui che viene la cultura d'avanguardia? Ma quali libri sonori, oggetti, libri oggetto, libri animati, libri visivi, sti cavoli? Ma no, dico, la cultura d'avanguardia viene da questi movimenti. Questi sono nuovi, e questi hanno qualcosa di nuovo da dire, e lo dicono in un modo nuovo, e sanno dire in un modo nuovo, e trovano un modo nuovo per dirlo. Per cui ho buttato per aria tutto, ho fatto entrare tutti i materiali, prima dei fronti di liberazione del terzo mondo, in particolare latinoamericani, perché sono stati i primi a appassionarmi, e sull'onda di ciò tutto il materiale dei movimenti in Italia, e quello che voi sapete, potete vedere e trovare in questo libro. Hanno cominciato a cioè lo spazio non c'era più per andare avanti in un'operazione così vivace. E io facevo le proiezioni con un trespolo messo dentro in questa piccola libreria, che era più o meno un ambiente più stretto di questa sala e non tanto più lungo, quindi una cosetta proprio minima, ma non reggeva più. Io proiettavo addirittura sulla vetrina, in modo che dalla strada si vedessero questi documentari del Vietnam, no? La gente passava dentro un registratore a tutta birra con i canti rivoluzionari latinoamericani, spagnoli dell'epoca anarchica e tante altre cose. E c'è stato offerto un locale più ampio, ci siamo trasferiti e ha cominciato lì a essere possibile una serie di iniziative vere, nel senso che prima sono arrivati gli studenti a fare le loro assemblee, prima cosa a occupare lo spazio con le loro assemblee, dai licei vicini e anche da quelli più lontani. E poi, insomma, io ho cominciato la caccia ai documentari per fare proiezioni di questi film del terzo mondo e dei movimenti di liberazione, sia in America Latina, sia in Africa, sia in Asia, e quindi nel sud-est asiatico. E di seguito a questo, incontri, dibattiti, a ogni proiezione seguiva un dibattito. Noi, come lui ricordava, avevamo un'attività, ne è nata un'attività notturna che veramente si prolungava fino alle 3 del mattino, cioè è una cosa incredibile, irripetibile, come ben sappiamo, no? E io di questo punto nel libro ho voluto dare tutte le informazioni in mio possesso, no? Restituire, riportare alla luce e mettere su carta tutte le informazioni in mio possesso di ogni evento, di ogni proiezione, di ogni dibattito, di ogni incontro di cui avevo registrato la memoria, perché sono sicuro che da questi titoli, da queste indicazioni uno studioso possa ritrovare le tracce di materiali altrimenti non solo sono comunque introvabili, ma comunque neanche identificabili, cioè almeno sono riuscito a dare un indirizzo, no, a una serie di documenti che a qualche studioso può interessare cercare. E io non ho da dare, non ho avuto e non ho tuttora naturalmente da dare un percorso di ricerca, le indicazioni per un percorso di ricerca, però penso che lo sforzo di dare le indicazioni base di ogni documento che ho potuto rintracciare di tutto quel periodo di attività possa servire per ricostruire un percorso di ricerca. E per questo sono doppiamente contento che esista un libro che contiene questi dati, perché proprio perché può essere, al di là di rappresentare la storia di una libreria di movimento come ce ne sono state poche in Italia, no? E quindi essere quindi un documento storico di per sé di quello che è stato in Italia una libreria di movimento, almeno per qualche riguardo il periodo in cui l'ho conosciuta, poi è diventata una libreria indipendente con una sua evoluzione, no? Eccetera. Diciamo, io non c'ero più perché appena mi sono accorto che il movimento svaniva, io mi sono reso conto che dovevo cominciare a fare il libraio e a trattare la libreria in un altro modo, no? E in questo ho visto in Anna la persona che sapeva farlo e in me la persona che non sapeva farlo. Perché hai lasciato la rogna Anna, perché io ero stato bravissimo a fare il lavoro di ricerca dei documentari, di organizzazione dei dei dibattiti, abbiamo organizzato anche concerti, teatro, ho scoperto dei personaggi musicali incredibili, come si chiama quello pugliese che mi ha impressionato tanto. Comunque ne ho messo il ricordo qui dentro. Poi grandi documentaristi, Sì, senza parlare dell'aspetto, quello mi ha appassionato moltissimo ed è nato sull'onda in realtà di un lavoro da libraio che è stata la primissima fase di raccolta dei documenti di movimento, no? su cui si è costruito tutta questa attività di eventi e di incontri, dibattiti così frenetica. Ma una volta presa quella strada non ho saputo ritornare indietro e riprendere un po' da capo la situazione, a capire allora ricominciamo. Dunque, abbiamo una libreria dove esistono questi documenti che nessun altro ha, costruiamo su questo. Anna è stata capace di costruire su questo. Io onestamente, una volta che è finito il fermento, non mi sono sentito all'altezza e quindi mi sono rimesso a fare libri per bambini. E queste sono un po' le cose che ho da dire, ma naturalmente ci sarebbe molto altro. Io spero di essere riuscito in questo libro a dire quello che serve a chi lo legge. In più, diciamo, vorrei dire che a me è servito questo libro in un altro modo. Gli interventi che ci sono, che sono qui presenti, e mi spiace non ci sia stato questo suo perché sarebbe stato prezioso, mi hanno fatto riscoprire Anna molto meglio di come l'avessi conosciuta e di come l'avessi capita vivendo insieme nella libreria, perché Anna era quella del piano di sopra che si occupava dei libri, io ero quello del piano di sotto che si occupava dei dibattiti dei film, no? E ovviamente le cose erano legatissime, quando arrivavano libri nuovi di un certo tipo mi entusiasmavo e mi muovevo anche a livello promozionale, però non avevo capito Anna come libraia così bene come questo libro me l'ha fatto capire. Cioè, a distanza di anni io devo essere grato a questo libro per avermi fatto riscoprire le qualità di questa mia compagna che è riuscita a portare avanti quello che era stato cominciato e a mantenerne la struttura attraverso gli anni, il significato e forse anche ad aumentare la portata nel corso degli anni, cosa che appunto, come ripeto, io non avrei saputo fare. Ma non l'ho neanche saputo capire. Questo un po' mi dispiace riguardo all'epoca, mi fa piacere riscoprire adesso come è stato importante. E lo riscopro oggi attraverso questo ricordo di Anna che secondo me è altrettanto fondamentale quanto ritrovare i documenti che potevano essere perduti, insomma, rimettere insieme un po' dei documenti che potevano andare smarriti. Va bene. Allora, ci sono altri? Sì, volete intervenire? Beh, Alberto qualcosa potrebbe dire. Alberto è andato all'uscita, sì. Eh? Allora, prego. E quello che ti ho ringraziato prima insieme all'altro collega, c'è il microfono che è lui. Io ti ho chiamato in causa ma tu non c'eri, Non c'eri ancora, non eri ancora arrivato. Ho raccontato un po', e quindi ho coinvolto te, Luigi. Ho dimenticato, si vede la... non ho... come? Non sei arrivato in tempo. No, non sono arrivato in tempo. Ma che ora è cominciato? 5:30. Niente, ho sbagliato l'ora completamente. E infatti, ma quando è stata fatta questa intervista? In che anni? Senti, sarà stato non molto dopo che sono arrivata io, quindi sarà stato... il 91, il 90, me anni 90, perché già c'era stata la pantera. Quindi mentre io c'ero ed ero completamente certo distratto, perché non nessuno aveva quella sera, tu non c'eri né tu e né Luigi, quella sera eravamo io e Anna da sola. E chi è il giornalista? Chi è il giornalista? Chi era il... che gli ha fatto l'intervista? Non me lo ricordo, non mi riesco a ricordare il nome, però era uno che si vedeva molto in quel periodo. Ha fatto anche delle domande, anche un paio di domande pure cretine, perché insomma uno che entra in libreria e dice che cosa mi consiglierebbe di leggere. Ma forse era nell'ambito di una serie di cose in libreria, può essere, perché mi ricordo, ho un vago ricordo. Cioè erano varie cose in libreria, con lo sfondo delle librerie, in cui le librerie consigliavano. Esatto, lui faceva questo tipo di servizio, chiamiamolo così, e ha contattato pure noi. Ma a me mi sembra vagamente di ricordare che tu, ti ricordi che tu eri designato a tenere i rapporti col Manifesto, no? Era uno del Manifesto? Tu? Era uno del Manifesto? No, dico tu perché non c'eri, perché spesso in quel periodo uscivi, ti ricordi, e andavi a parlare con questi e non si vedevano mai. Quindi era l'ultimo per dire. No, la cosa che mi ha fatto, diciamo, perché ci sono tantissimi anni adesso. Sottolineando il fatto che Anna ha mantenuto questa attività quando diciamo si stava, ma dove l'avete trovato? Diciamo il movimento non si muoveva tanto più, no? Quindi diventava una professione, diventava un lavoro, no? Questa è stata noi oggi, se non ci fosse stato questo, cioè se ci fosse stata una libreria solo degli anni 70, perché questo è un libro decisamente tutto su quello che poi è il valore fondante di questo libro, perché non avrebbe... Io ho cominciato a lavorare nell'87 e c'era uno scaffale in cui ancora c'erano echi lontani di tante cose antiche, più antiche erano più appunto stavano al piano di sotto, sì. E ormai quasi, quasi macerate, però c'erano una serie di cose che con rese successive, con scremature successive, però ancora diciamo appunto aveva una storia, una profondità. Poi c'era questa doppia dimensione fra una libreria, ecco, mi sembra di dire, fra una dimensione internazionale, cioè cittadina, e una dimensione invece di quartiere, e le due cose si incrociavano. Ogni tanto ritorno, tra l'altro quando io sono andato a lavorare il terrorismo era praticamente finito, se non con alcuni vaghi barlumi, che non mi ricordo, no, forse Dosi era accaduto prima nell'86, insomma, ma comunque c'erano ancora degli echi, e nello stesso tempo però invece quindi c'è una contraddizione assoluta, perché è una libreria tranquillissima, quindi l'immagine o alcuni che continuano a venire, mettiamo, con tempi rarefatti, mentre invece veniva, era stata assolutamente accettata dal quartiere dopo molti anni, immagino, come un quindi Achille Bonito Oliva, mogli o amanti snob, per dire le persone, quindi c'erano tanti strati, anche era molto circoscritta e in un certo senso anche soffocata da queste trasformazioni. Io quando ho cominciato a lavorare ho assistito alla vostra nascita, io mi ricordo che tu sei venuta in San Federico in libreria, passavate, levi dava dei consigli, Io avevo pochissima esperienza già allora, oppure quando arrivò l'ego dell'affitto milionario che pagò la Feltrinelli all'Argentina, ci sembrò una cosa, mentre invece si capiva che sia la vostra scelta che quella della Feltrinelli era, cioè, credo che avessero chiuso pure il centro storico al traffico a un certo punto. Quindi c'erano dei vincoli sempre maggiori, era sempre più scollegata dal contesto. A parte la cosa decisiva è chiaramente la trasformazione politica del contesto. Quindi anche se era modificato il rapporto con le scuole, venivano delle insegnanti o di riferimento, che so, quella che ormai sta stabile da Vespa, perché c'è il tribunale minorile là, era una nostra cliente, tutto il suo gruppetto De Cataldo, mi ricordo. Però nello stesso tempo era un posto molto normale. Ecco, l'unica cosa veramente mi viene a dire che non era normale era Anna, quella cosa che io avevo tentato di ricostruire, cioè nel senso di questa libraia che aveva una vocazione da libraia antieconomica, cioè nel senso, infatti mentre parlavi prima tu, perché qua si deve, qua c'è una profonda trasformazione, io non faccio più il libraio da anni, quindi sono, diciamo, riflessioni da autodidatta di uno che ha fatto più o meno il suo mestiere e che è abituato, diciamo, a riflettere criticamente. Secondo me qua sta avvenendo come uno spostamento incomprensibile che neppure un libraio può capire, perché io anche nelle tue parole, eppure tu sei una persona viva, nel senso appassionata alla fotografia, che ti muovi, ci siamo incontrati a Genova appunto, però nel senso uno è arroccato all'idea del libraio, cioè che c'è questo spazio in cui c'è una funzione sociale. Cioè il problema è un po' questo. L'altra volta con una mia amica parlavamo, spero che il filo più o meno si segue, il libro oggi potrebbe tranquillamente attraverso internet, che indubbiamente provocherà fra non molto, secondo me, delle cose radicali, sia sul piano politico della rappresentanza democratica, perché da un certo punto di vista al limite del Parlamento non ci potrebbe anche non essere bisogno, cioè c'è una certa inerzia per noi nel pensare le cose nuove, perché siamo spiazzati, noi abbiamo bisogno di un territorio, legittimamente. La libreria è veramente un luogo bello, perché non è il libro, ma è i libri, cioè nel senso che c'è un contesto, i libri sono appunto uno a fianco all'altro, e quelli e non quegli altri, quel settore e non quell'altro settore, il rapporto con chi te lo vende, le possibilità di incontrare un altro in libreria, in quel quartiere. Quindi è qualcosa effettivamente di insostituibile dal meccanismo massiccio della distribuzione, che mentre tu parlavi, la distribuzione, qua c'è il problema, io credo, dell'oligopolio, cioè c'è una dimensione che deve essere grossa, quindi non può essere quella dell'editore o della libreria, nel meccanismo che si impossessa di tutta la filiera, diciamo. Perché per esempio frutta e verdura è uguale, no? Quelli sono i pomodori Pachino. Allora, da una parte c'è questo grande scontro del capitale, mi viene di dire, il quale concentra e cerca di dirigere e di controllare. Ma da un altro punto di vista, guardate che sorprendentemente le librerie piccole, certo non hanno la storia dell'uscita, non hanno veramente la grande passione di, appunto, di una persona che da quando era giovane, no? È stata tutta la sua vita, la vostra vita, però ce ne sono tante. Resi della Lungaretta hanno venduto e poi è arrivato Minimum Fax, cioè non è arrivato il grosso che, e fanno un lavoro non tanto differente. Perché poi è arrivata Mirella in libreria, noi avevamo, io credo a Roma, correggete, ma un panorama editoriale stupefacente per la povertà: Astrolabio Baldini, Le Mediterranee, era appena aperto Donzelli. No, scusate, c'è la teoria, c'è la teoria, sì, le dice, no, panorama povero, Ma, no, ma poverissimo, tu eri Torino, Milano, una capitale, cioè, no, no, povero, ridi, oggi in qualche modo sono di più. Donzelli una verga si dice pazzi. Mi sembra che c'è un panorama, cioè ci sono state delle trasformazioni. Da un altro punto di vista mi sembra che quello che appunto, a cui appunto allude la libreria, cioè il meccanismo per cui il libro, ecco, in qualche modo è condiviso, non è solo un oggetto che passa da chi lo scrive attraverso l'editore che prende dei rischi, e bisognerebbe anche capire però qua, perché noi qua lo vediamo dal punto di vista della libreria, ma c'è un problema secondo me probabilmente abbastanza grave di editore autore con il meccanismo dei diritti d'autore, perché alla fine la cultura è, cioè, il problema è che si deve pubblicare sto libro e qualcuno si deve prendere la responsabilità dei costi, no? E naturalmente se costa e non si vende tende a scomparire, no? Però nello stesso tempo, scusate, io parlo un po', la trasformazione che è avvenuta è nella grande fiera di Baraccone della promozione del libro, perché sembra che i luoghi, diciamo, di affezione al libro, prima non c'erano questa, la fiera di Mantova, la Massenzio, che all'autore già gli si commissiona il libro, si chiede di raccontarci il libro che ancora non ha scritto, no, tutta questa grande, che secondo me è una distorsione, però nello stesso tempo testimonia pure una nuova modalità di rapporto, anche orale, anche come se fosse, no, un guru, diciamo un orientamento, no? Quindi ci sono tanti piani, secondo me, in cui la libreria secondo me non è che verrà molto facilmente tagliata fuori, però è come se ci fosse una mappa nuova, è una nuova ripartizione possibile di questo oggetto. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Cioè, per esempio, noi possiamo immaginare, l'altra volta appunto discutendo con una mia amica, che un libro viene scritto, viene anche con supporto attraverso internet, tu lo puoi vendere senza resa e senza, diciamo, saltando tutto, ma è lo stesso libro, nel senso è lo stesso libro rispetto al fatto che tu ne vedi la grafica, ne conosci le connessioni appunto con altri libri, ne hai letto delle recensioni, no, in un certo senso. No, e quindi noi non, il libro non è qualche, cioè appunto è un prodotto sociale che camminerà trasformando il contesto sociale nel quale si esprime in un certo senso. E io penso però che la libreria è, diciamo, indifendibile come è stata, perché in un certo senso, mentre parlava quando sono entrato lui, è lo Stato che se ne dovrebbe fare carico. Cioè questa spaccatura fra library e bookshop, cioè fra la libreria di vendita e invece le due grandi biblioteche di Roma e Firenze, non ha mediazioni, mentre invece, però quando tu vai a quella, diciamo a quel livello di discorso, non c'è più il problema solo della libreria, ma devi arrivare al problema dell'editore, perché come fai, come giustamente dicevi tu, a mantenere una profondità di scaffale se i libri magari te li comprano ma l'editore non li pubblica più? E l'editore come fa se col diritto d'autore c'è un'altra? Quindi qua c'è un problema al solito, secondo me grosso, col capitalismo, cioè fra libera impresa e invece prodotto sociale di interesse. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi io intravedo qualche cosa in cui c'è una fibrillazione, una tensione fra questi due poli. Concludi. No, niente, poi invece è un lungo. Una testimonianza rapidissima. Lavorando volentieri, del cui comitato scientifico faccio parte da tanti anni, all'epoca in cui c'era Carlo Amico, che non c'è più, Alfredo Strazzano, che faceva opere come romanzi di battaglia, stava in un'intervista, eccetera, è stata comprata dal gruppo James Maurice Spagnol. Allora, un grosso dirigente del gruppo James, nella prima riunione, mi fa secco: i bei libri sono, come diceva Spagnol, i libri che si prendono. Al che ho detto, benissimo, allora io piazzo, me ne vado via e dico, propongo che al mio posto venga Luciano De Crescenzo. Dice, no, ma intendiamo, dico, guarda, dico, Spagnol non c'è più, mi dispiace, ma ha detto una gigantesca stronzata. E tra l'altro ho detto, chi fa dei bei libri importanti fa un bene culturale, i librai che sanno valorizzarli sono delle centrali che esistono nei libri culturali, dovrebbero sostenuti da una spesa pubblica orientata che investa nei beni culturali stessi. Un grande libro, cioè un libro di qualità. È vero, è strano che non ci sia nessun rapporto, nessuna mediazione, nessun stato cucinetto tra la biblioteca e la libreria. Invece ci sono via di mezzo, cioè la libreria interviene da cari di Carlo. Oggi è così. Oggi è così. Allora, fare la libreria di catalogo che si fa come tempi di cucina oggi è da cucina. Se non c'è un sostegno, posso sollevare un piccolo problema? Sollevo un piccolo problema che forse è grande. Cioè, ricordiamoci che all'epoca si leggeva tanto, si compravano tanti libri. Perché? Perché erano gli anni 70, perché era l'onda del 68, perché c'era un clima politico, sociale, e c'era scena di televisione. Allora, ora tutto questo non c'è più. Forse dobbiamo cercare di ricreare una situazione che però, secondo me, è ancora lungi da venire. Non so, speriamo, mi auguro che possa avere. Sono altri, sì. No, io volevo acquistare un paio perché ho per un amico che allora ecco l'editore uscita a quei tempi, ecco, adesso ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco